24 2024 di Enrico Pagliarini. Siamo in onda anche questa settimana, questa è la puntata del 23 e 24 agosto 2014. Benvenuti o bentornati a 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Provate a pensare a quanti servizi oggi dipendono dal GPS. Beh, molto semplice guardare al proprio smartphone e quanti sono i servizi che chiedono accesso ai dati di localizzazione delle nostre applicazioni, del nostro smartphone. Ma ci sono una miriade di sistemi oggi che funzionano grazie ai sistemi di posizionamento globale. Il GPS è il più noto, il Global Positioning System gestito dall'aeronautica americana, una costellazione di 24 satelliti che viene costantemente aggiornata, che non è che questi vivono per sempre. Un satellite vive per una quindicina d'anni mediamente, poi vengono sostituiti con nuovi satelliti anche tecnologicamente più aggiornati. Oggi il GPS costituisce il principale sistema di posizionamento globale sulla Terra. L'unico paragonabile ad oggi funzionante è il GLONASS russo. Noi non lo sappiamo, ma ci sono molti smartphone, molti sistemi che controllano e che recepiscono i dati da questi satelliti, che hanno a bordo anche chip che riescono a decodificare anche il segnale del GLONASS russo. Ci sono altri sistemi locali o comunque in via di sviluppo, ma nulla di paragonabile in giro per il mondo. L'unico sistema che sarà paragonabile sarà il, per certi versi anche molto più evoluto, sarà il Galileo europeo. Tra l'altro, Galileo sarà il primo sistema civile, perché mentre il GPS americano e il GLONASS russo sono due sistemi militari e quindi decidono i militari il livello di approssimazione, di precisione del segnale e quanto aprire o chiudere il sistema, e in casi di emergenza potrebbero anche decidere di bloccare o degradare di molto il segnale, anche se questa è una possibilità molto, molto remota, soprattutto per gli americani. Tuttavia l'Unione Europea molti anni fa decise di dotarsi di un sistema civile. Era un mondo completamente diverso quello in cui viene presa questa decisione. Allora, il sistema sarà operativo tra qualche anno. Ne parliamo questa settimana perché alla fine di questa settimana, venerdì, sono stati lanciati due nuovi satelliti, e siamo a quota 6 della costellazione che dovrà arrivare a 30. Sono 24 satelliti funzionanti più 6 d'emergenza. Però c'è stato un problema che non inficia, diciamo, il progetto generale di Galileo, ma comunque è un problema che dovrà essere risolto, sul quale non abbiamo molti dettagli al momento di andare in onda, quindi al sabato pomeriggio. Quello che sappiamo fino a questo momento è che i due satelliti sono stati collocati su un'orbita sbagliata. Secondo i comunicati stampa che sono stati fatti dall'Agenzia Spaziale Europea e da Arianespace, che è la società francese che si occupa di lanci da Kourou in Guyana francese, i satelliti comunque sono sotto controllo, i segnali sono stati ricevuti dalle stazioni base, quindi sono controllabili. Bisognerà vedere, innanzitutto, per quale motivo sono stati posizionati su un'orbita sbagliata, e poi bisognerà capire se il carburante o comunque la situazione permetterà di posizionare i satelliti sull'orbita giusta, oppure se quell'orbita potrà essere utilizzata anche se questo mi sembra piuttosto difficile. Vedremo nelle prossime ore. Seguitemi su Twitter, vi darò aggiornamenti in base a quello che alle notizie che arrivano dalla Guyana francese. Qui bisognerà anche scoprire da chi è stato provocato il problema. L'Agenzia Spaziale e Arianespace scrivono: è stata rilevata una discrepanza fra l'orbita prevista e quella effettivamente raggiunta. Sono in corso indagini, stiamo analizzando i dati del lancio, indagini anche da parte delle agenzie spaziali e delle aziende coinvolte nella missione. E qui sono quattro sostanzialmente i soggetti. Arianespace, che comunque ha il controllo totale e generale dei lanci che vengono fatti dalla Guyana francese, poi il lanciatore russo, e quindi ci sono anche tecnici russi, perché in questo caso per lanciare questi due satelliti è stata usata una Soyuz. Sapete che c'è un accordo tra l'Europa e la Russia per la società che gestisce Soyuz per lanciare da Kourou, dalla Guyana francese, le Soyuz, e questo, in questo caso è stato utilizzato un lanciatore russo. I satelliti sono di produzione tedesca. E poi c'è anche l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che supervisiona questo progetto per conto della Commissione Europea. Allora, vedremo che cosa succederà. Comunque sia, il programma procede. Già a dicembre è previsto un nuovo lancio, e quindi attendere al massimo ci sarà un ritardo di qualche mese, ma insomma il progetto prosegue, e fra qualche anno avremo questo sistema di posizionamento europeo gestito completamente dall'Europa. Allora, alcuni dettagli ce li ha dati Franco Bonacina, che è stato intervistato da Gigi Donelli proprio nel giorno del lancio. Franco Bonacina è il portavoce dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Sì, siamo stati in via, avevamo già lanciato 4 satelliti della fase precedente, che era quella che chiamavamo di validazione, per permettere di vedere che il sistema funzionasse in orbita. Questi 4 satelliti erano stati lanciati nel 2011 e nel 2012 e nel 2013 hanno dato i primi risultati, perché ci vogliono 4 satelliti come minimo per poter dare un fix, per poter fissare la posizione nel sistema, e hanno dato dei risultati eccezionali al di là di qualunque aspettativa. Siamo arrivati a determinare la posizione di ricevitori con una precisione dei 3 metri, anzi a volte anche addirittura meglio. Quindi già Galileo funziona, siamo molto contenti di questo. Abbiamo ancora 22 satelliti da lanciare, li lanceremo a grappoli di 2-4 alla volta, ancora con delle Soyuz oppure con degli Ariane 5. Ne avremo 16 in orbita per il 2016, e il sistema di 30 satelliti, che comprende anche 6 satelliti di ricambio, sarà pronto nel 2020, ma non dobbiamo aspettare fino al 2020 per godere i benefici di Galileo. Per fortuna già il prossimo anno, alla fine di quest'anno, inizio del prossimo anno, possiamo già beneficiare dei primi segnali, perché mano a mano che aumenta il numero di satelliti nello spazio abbiamo una visibilità più lunga durante la giornata. Questo permette agli operatori di cominciare a sviluppare le applicazioni per i nostri telefonini e per i nostri ricevitori GPS, Global Positioning System, che spero tra poco potremo chiamare Galileo Positioning System e essere orgogliosi di questa cosa europea. Ecco, a questo proposito, per dare un'idea, quando sbarca sul mercato Galileo ufficialmente? Beh, ufficialmente è difficile dirlo adesso, c'è ancora tutta una fase di preparazione l'anno prossimo e i 2 anni che seguiranno, per permettere di affinare le applicazioni da parte di chi le deve sviluppare. Sono già pronti dai ricevitori, e poi in realtà per noi sarà quasi trasparente, non ci accorgeremo. Quando compreremo un ricevitore GPS, compreremo un ricevitore che ci permette di prendere il GPS tradizionale e allo stesso tempo anche Galileo, quindi alla fine non vedremo tanto la differenza. Diciamo che nel giro di 2 anni possiamo già dall'anno prossimo il segnale GPS sarà migliorato grazie alla presenza dei 6 Galileo che abbiamo messo in orbita. Quando il sistema sarà completato nel 2020 saremo più che a cavallo, ma a partire 2016-2017 possiamo dire che saremo in grado di dire che Galileo ci fa un servizio d'eccezione che va al di là, come dicevo prima, della capacità del GPS stesso. Abbiamo, come si dice, bagnato il naso gli americani in tutta una serie di aspetti. Ecco, tutto questo per avere un sistema più moderno, evidentemente più efficiente. Si aprono davvero delle nuove porte, palazzi, spazi di sviluppo tecnologico? Si aprono molte possibilità, si aprono molti posti di lavoro, si aprono molte possibilità di sviluppare applicazioni. È un sistema civile, tra l'altro, vorrei sottolineare questo: non saremo più dipendenti in Europa dalla volontà dei militari americani che gestiscono il GPS attualmente, quindi le aree di copertura saranno anche più estese, perché Galileo si mette su tre piani, su posizioni diverse, e ci permette anche di coprire delle regioni che il GPS non copre, come per esempio le regioni dell'estremo nord, dell'estremo sud del nostro pianeta. Il GPS e Galileo e i satelliti sono solamente la punta dell'iceberg, non dimentichiamoci che sotto il pelo dell'acqua, diciamo, c'è un insieme di stazioni al suolo molto molto complesso. L'Agenzia Spaziale Europea si è data molto da fare per costruire stazioni di controllo, in particolare in Italia abbiamo il Fucino che opera praticamente, è il cuore pulsante insieme a Oberpfaffenhofen in Germania di tutto il sistema di navigazione Galileo, però sono anche delle stazioni sparse in tutto il mondo, da Kiruna quasi al Polo Nord, alle isole Svalbard sempre al Polo Nord, alle isole Kerguelen, tra l'Australia e l'Africa, sono tutti territori europei. È stato difficile andare a trovare ritagli di territori europei. I francesi ci hanno dato le isole Kerguelen, le isole della disolazione, dove poter installare una stazione al suolo. C'è un'altra stazione al suolo per Kourou, che è fondamentale e che appunto permette di far funzionare il sistema tutto made in Europe. A proposito dell'importanza di un sistema di questo tipo, ripeto quello che ho detto all'inizio della puntata, pensate a quanti servizi oggi dipendono da un sistema di posizionamento globale e tutto quello che nascerà ancora nei prossimi anni per creare nuove applicazioni, nuovi servizi. E non solo il GPS e anche Galileo serve per la posizione, ma anche per l'orario. Ci sono molti servizi che devono avere un orario molto preciso e l'orario molto preciso lo prendono dal GPS, che è precisissimo. Ci sono degli orologi atomici su ogni satellite di Galileo, ci sono 4 orologi atomici che hanno una precisione di un secondo ogni 300 milioni di anni, insomma una precisione incredibile, e molti servizi che richiedono per vari motivi, per sincronizzazioni varie, per mille altri motivi, che richiedono un orario molto preciso, lo prendono da questi satelliti. Quindi questo è un ulteriore motivo per cui abbiamo bisogno di cose di questo tipo. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso abbiamo le nostre consuete digital news, anche se questo agosto è stato molto ricco di notizie nelle prime settimane, invece in questa settimana non ci sono state tantissime notizie, ma ce ne sono state. Digital news. Iniziamo da Microsoft, che dovrebbe presentare la prossima versione di Windows il 30 settembre. Sarà naturalmente una anticipazione, probabilmente verrà chiamata Windows 9 per segnare un taglio con l'attuale versione, che non ha ottenuto un grande successo visto che molti, anche molte aziende, sono rimaste a Windows numero 7. Digital News. Sempre Microsoft deve trovare il proprio spazio nel segmento mobile, soprattutto smartphone, dove la quota di mercato mondiale di Windows Phone non si sgancia dal 2-3%. Vanno diversamente le cose in Europa, dove in molti paesi, fra cui l'Italia, la quota è attorno o supera il 10%. Da segnalare, tra l'altro, che HTC ha annunciato il ritorno alla piattaforma Windows su smartphone. Negli Stati Uniti sarà disponibile HTC One for Windows. Si tratta della stessa versione M8 dell'HTC One, un ottimo telefono per alcuni, addirittura il miglior telefono Android. Quindi questo prodotto continuerà ad essere sia Android che anche Windows Phone. Infine, per quanto riguarda l'Italia, vi segnaliamo che da questa settimana è disponibile in Italia il nuovo Lumia 530 Windows Phone 8.1 a 99 euro, un prodotto molto economico ma sicuramente molto performante, con molte caratteristiche di telefoni di gamma medio-alta. Digital News. Una notizia che riguarda in primis chi è abbonato al pacchetto Sky Calcio, ma è interessante per tutti coloro che si occupano di tecnologia. Sky ha lanciato Sky Sport Plus HD, un nuovo canale che trasmetterà gli eventi più importanti del calcio con una nuova tecnologia chiamata Super HD, che permette di trasmettere ad un bitrate maggiore, quindi con una maggiore qualità. È importante questa notizia perché abbiamo bisogno di nuovi canali in HD di buona qualità, perché ci sono anche dei canali HD di cattiva qualità. sia sul satellite ma anche e soprattutto sul digitale terrestre. Purtroppo da questo punto di vista gli editori non stanno facendo moltissimo, anche la RAI è molto lenta a fare nuovi canali in alta definizione, c'è chi attende anche una piattaforma alternativa via satellite che trasmetta programmi in HD, visto che oramai moltissimi milioni di italiani hanno televisori che permettono di visualizzare alta definizione, e qui tutti parlano di 4K, sappiamo benissimo che ad oggi il 4K è pressoché inutile, perché i contenuti arriveranno, se va bene, fra 3, 4, 5, forse più anni. Digital News. Indiscrezioni uscite sul web ci dicono che Google lancerà a breve un servizio di streaming musicale a pagamento senza pubblicità basato su YouTube. Oggi è impossibile ascoltare musica su YouTube, ma c'è la pubblicità. Questo servizio si chiamerà YouTube Music Key, costerà $10, cioè i classici $9.99 al mese. Vedremo dove verrà lanciato, probabilmente subito negli Stati Uniti, soprattutto che ne sarà del Google Play Music All Access, che dovrebbe essere, secondo queste indiscrezioni, essere ribattezzato, ribrandizzato Google Play Music Key. Comunque c'è un po' di confusione, se mettono ordine sicuramente una buona cosa. Digital News. Il governo federale tedesco punta a fornire la possibilità di una connessione veloce a internet a ogni cittadino entro il 2018. Comunque anche in Germania un conto è dirlo, un conto è farlo. Comunque il progetto è stato approvato questa settimana, punta entro i prossimi 4 anni a fornire ogni casa tedesca di una connessione di almeno 50 megabit al secondo. Per contenere i costi, le aree meno densamente abitate saranno connesse attraverso radio, servizi radio e non via cavo. Però l'annuncio è stato criticato, molte imprese del settore dicono che questo progetto contiene molte proposte troppo vaghe. Questo è 2024, riprendiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi: 2024@radio24.it. Potete seguirci anche attraverso Facebook e Twitter. La prossima settimana il governo, nella giornata del 29 di agosto, dovrebbe approvare anche alcune norme che riguardano lo sviluppo della banda larga, dovrebbero favorire lo sviluppo della banda larga. Non mi aspetto nulla di eccezionale e rivoluzionario, comunque commenteremo quello che verrà approvato, sperando che poi anche il Parlamento lo approvi e magari lo migliori. Tutto quello che va verso questa direzione è sicuramente positivo. Abbiamo bisogno, un grande bisogno di diffusione della infrastruttura, e non solo delle infrastrutture, anche dei servizi. Faccio un aggiornamento relativo all'allarme lanciato da ASSO Provider sui servizi di connettività internet wireless senza fili. Sapete che in Italia anche molti dei nostri ascoltatori si connettono ad internet tramite frequenze radio con sistemi che vengono definiti hyperlan. Sostanzialmente ci sono molti operatori, migliaia di operatori, piccoli operatori in tutta Italia. Secondo ASSO Provider il ministero starebbe per restringere e per interpretare in modo più restrittivo alcune norme che riguardano questo tipo di servizi su alcune frequenze particolari. Abbiamo contattato il ministero e il ministero ci ha assicurato che non c'è nessun cambiamento, e quindi questo allarme, diciamo, stando a quello che dice il ministero, sarebbe rientrato. Vedremo e seguiremo la vicenda anche nelle prossime settimane. Comunque, a proposito della diffusione di internet, facendo riferimento anche al progetto del governo tedesco che è stato annunciato questa settimana e anche agli obiettivi europei tra l'altro che secondo molti, e io mi aggiungo alla lista di questi molti, sono oramai vecchi e datati, bisogna guardare un po' più in là, pensare a connettività molto più performanti per il futuro del paese, e bisogna cominciare a pensare ad una infrastruttura così come le si pensava negli anni 50-60, a lungo, con una visione di medio-lungo periodo, quindi pensare ad una infrastruttura in fibra ottica che ci metta al riparo e ci ponga ai primi posti internazionali con connettività molto più elevate rispetto a quelle che, di cui si discute oggi. Altro che 30, 50 o 100 megabit, qua bisogna cominciare a pensare in termini di gigabit per i prossimi 10-20 anni. Allora, una delle proposte, anzi la proposta più convincente che mi è stata sottoposta e che vi vorrei riproporre in questa puntata è quella che da parecchi anni oramai Simone Bonannini ha elaborato. Simone Bonannini è amministratore delegato di Interroute, è un esperto di telecomunicazioni, e lui dice che bisogna fare una infrastruttura pubblica messa a disposizione di tutti gli operatori, ma guardando ad un orizzonte temporale dei prossimi 10, 20, 30 anni, così come appunto si costruivano le grandi infrastrutture che hanno creato il benessere in questo paese. Mi sembra attualmente la proposta più convincente, io però sono aperto a valutare e a studiare, osservare qualsiasi altra proposta mi arrivi. Scrivetemi anche per commentare quello che stiamo per ascoltare. Simone Bonannini. Qui dobbiamo, secondo me, risolvere sostanzialmente due problemi. Uno è quello tecnico, cioè ragionare a 30 anni e quindi avere un'infrastruttura che sarà, come dicono gli inglesi, future proof, quindi sulla quale non dobbiamo, a prova di futuro, sulla quale non dobbiamo più mettere le mani una volta che è stata fatta. Il secondo problema è garantire il libero mercato, perché poi le nostre aziende devono essere competitive, i nostri utenti e noi stessi a casa dobbiamo poter avere i servizi a prezzi equivalenti a quelli che i nostri colleghi europei o americani o giapponesi o del Far East asiatico hanno, e quindi serve la competizione. Vuol dire che più soggetti si devono poter scontrare in maniera positiva sul mercato per poter fornire i loro servizi. Detto ciò, io credo che non possiamo avere più infrastrutture dell'operatore 1, quella dell'operatore 2, quella dell'operatore 3, perché sarebbe sciocco andare a replicare degli investimenti. E poi, come abbiamo già visto, questa replicazione di investimenti al massimo può succedere solo in alcune aree economicamente interessanti, ma non d'altra parte. Quindi per me la soluzione è una ed una sola: una rete passiva, dove con passiva intendo fatta di fibre ottiche spente e di tubi, pubblica interamente al 100%, messa poi a disposizione di tutti gli operatori di telecomunicazioni a parità di condizioni tecniche ed economiche, che poi si faranno la competizione sul servizio. Ti faccio una domanda sul concetto di passivo, poi ti faccio una domanda sul concetto di rete pubblica, perché questo è un aspetto importante. Cosa significa in modo più specifico passiva? Allora, passiva, ripeto, per me è importante il grosso del costo di realizzare queste infrastrutture e fare gli scavi, le canalizzazioni, dove poi infilare... O sfruttare cose che ci sono già. O sfruttare assolutamente cose già esistenti. In molte città ci sono già molte canalizzazioni disponibili. Sfruttare quindi questi tubi per poi infilare la fibra ottica spenta. Perché dico passiva e sottolineo spenta? Perché nel momento in cui questa infrastruttura con queste caratteristiche è messa a disposizione degli operatori, avviene la vera competizione. Se invece esiste un soggetto che accende questa rete, cioè ci crea dell'elettronica e un servizio sopra, e poi va a rivendere la capacità ad altri, è in grado di introdurre degli elementi discriminanti, e quindi se lui stesso fa anche il mestiere di andare a vendere i servizi all'utente finale, è un po' come se fosse un arbitro che gioca anche a pallone. Sì, è importante questo. Lo Stato dovrebbe investire soldi, quindi? Sì e no. Allora, qui innanzitutto dobbiamo capire di che ordine di grandezza stiamo parlando. Dalla nostra esperienza, ma non lo dico solo io, esiste un rapporto dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, il rapporto ISBUL del 2011, dice che sostanzialmente se volessimo realizzare ex novo una rete di accesso in fibra ottica per raggiungere le abitazioni di tutti gli italiani, andremmo a spendere per abitazione una cifra che oscilla tra i 400 e gli 800 euro. Io voglio essere pessimista, ipotizziamo di doverne spendere 1000 per abitazione. Quindi esageriamo. Esagero. Conto pari. Allora, tutti dobbiamo sapere che oggi per il doppino di rame che arriva a casa di ognuno di noi, o ognuno di noi o l'operatore con cui siamo abbonati paga al soggetto proprietario del doppino di rame circa 9 euro al mese. Ora, con 9 euro al mese più o meno stiamo parlando... È una parte del canone che noi paghiamo, insomma. È una parte del canone che voi pagate. Poi lo vedete trasparentemente in bolletta oppure no, perché se comunque, ne fa insomma, carico... l'autorità ha stabilito che questo è il canone per... Il proprietario del rame riceve 9 euro al mese per ogni connessione. Allora, 9 euro significa 100 euro, un po' di più, all'anno. Per arrivare ai 1000 euro significa che più o meno in 8-10 anni si rientra dell'investimento. Questo significa che, siccome, torno alla mia frase iniziale, per me quando si parla di infrastrutture dobbiamo fare un ragionamento a 20-30 anni, con un termine un po' brutto da finanziario, il progetto è bancabile, con delle regole del gioco molto chiare. Qui stiamo parlando di un soggetto pubblico che dovrebbe anticipare dei soldi e poi con delle regole ben definite, ovviamente, certo, quando mette a disposizione questa infrastruttura e sostanzialmente se a parità di prezzo io offro agli operatori la possibilità di avere o il rame o la fibra, tutti direi vanno sulla fibra. Tutti vanno sulla fibra. Ah, su questo non ho dubbi e io continuo a dire che investire in fibra ottica costa pochissimo, perché ti voglio però fare una domanda ancora sul costo. Cioè, quanto potrebbe costare questa infrastruttura? Tra l'altro questa infrastruttura pagata dal soggetto pubblico non è che la si fa in 6 mesi, in un anno, cioè gli investimenti vengono fatti gradualmente nel corso di una serie di anni, ma in totale quanto potrebbe costare questa cosa? Allora, abbiamo detto abbiamo detto che la forchetta andrebbe tra i 400 e gli 800 euro. Io ho esagerato e ho detto 1000 euro. Se fossero anche 1000 euro, in Italia ci sono 24 milioni di linee, staremmo parlando di 24 miliardi. Attenzione però, io sono un bimbo di campagna, mi hanno sempre insegnato che quando si decide di fare qualche cosa, prima si fa un attimo uno studio di quelle che sono le condizioni al contorno, cioè si va a vedere che cosa ci abbiamo già. Se vuoi la sequenza dei passi delle cose che secondo me vanno fatte in sintesi. All'inizio dobbiamo fare un catasto delle reti, andare a vedere che cosa c'è già, perché molte pubbliche amministrazioni in passato, alla fine degli anni 90, primi degli anni 2000, hanno costituito società di telecomunicazioni che con denaro pubblico hanno scavato, ma poi c'è la pubblica illuminazione, ci sono alcune condotte del gas dismesse, eccetera. Quindi il primo passo è vedere che cosa già c'è, e scopriremo che in almeno 40 città italiane, tipicamente concentrate al nord-est dell'Italia, centro-nord Italia, ci sono già molte infrastrutture disponibili. Secondo passo, una volta realizzato il catasto delle infrastrutture, ma possiamo fare una cosa banale? Ogni volta che una pubblica amministrazione spende denaro pubblico per scavare, perché deve posare un'infrastruttura dell'acqua, una del gas, una dell'energia elettrica o quant'altro, o comunque quando viene aperta una strada, possiamo informare tramite il catasto gli operatori di telecomunicazioni, o comunque anche senza informarli andare a costituire, quindi andare a realizzare l'infrastruttura di telecomunicazioni mettendo semplicemente un pacco di tubi vuoti. Il grosso del costo è lo scavo, e qui abbiamo fatto il secondo passo, quindi catasto, coordinamento nel momento in cui c'è un'apertura delle infrastrutture. A quel punto, secondo me, ci accorgeremmo che molta dell'infrastruttura è già esistente, molta dell'infrastruttura si può realizzare a costo quasi nullo sfruttando la concomitanza degli scavi. Quindi, per rispondere infine alla tua domanda, secondo me non credo che il progetto per connettere tutte le abitazioni italiane potrebbe superare il costo dei 15 miliardi. Ricordo, perché mi sembra importante, che tu dici abitazioni, aggiungo anche aziende. Certo. Cioè abitazioni e aziende. Corretto, perché quando ho parlato delle 24... Anzi, io partirei dai distretti industriali. Quando ho parlato dei 24 milioni di doppini telefonici, contengono entrambi, aziende e utenze domestiche. 15 miliardi. Esatto. Quindi, così a spanne, 3 o 4 volte il MOSE, un'opera completamente inutile, questo è un mio parere, però sfido chiunque a dire il contrario, visto che vedrete poi che salirà 1 o 2 volte all'anno a Venezia, ci sarà l'acqua alta comunque sempre, quindi poco. Io continuo a dire, se noi mettiamo in rapporto il costo dell'investimento fatto per la fibra ottica, questa che stiamo... Che Buonannini sta illustrando, è sicuramente un'idea, a me sembra un'idea sicuramente molto interessante da valutare, però dicevo, qualunque esso sia il modo per portare fibra ottica a casa delle aziende o a casa degli italiani, l'investimento in rapporto a quello che ci dà in prodotto interno lordo, in creazione di nuovi posti di lavoro, è incredibile. Però faccio un'altra domanda per stiamo parlando di un soggetto pubblico che dovrebbe investire in un periodo in cui io voglio vedere anche l'uomo politico che va a proporre, diciamo che mi piacerebbe vederlo, però effettivamente ci vuole un po' di coraggio andare a dire: cari italiani, dobbiamo investire in una infrastruttura che costa 15 miliardi, certo 15 miliardi in un tot di anni. Vedi, è una questione di certezza del ritorno dell'investimento. Con le regole giuste stiamo sostanzialmente creando un monopolio pubblico. So che sembra una parola brutta, ma questo forse è uno dei pochi monopoli positivi. Quindi un monopolio pubblico. Il rientro è certo, il mestiere delle banche d'affari è prestare soldi in un arco di tempo più o meno breve, vogliono vedere il loro ritorno. Esistono però anche, fammi dire, istituzioni pubbliche che quando investono denaro hanno la possibilità e l'ossigeno per poter pensare a tempi di ritorno molto più lunghi. Qui sostanzialmente si dimostra che in 10, 12, vogliamo esagerare, in 15 anni il ritorno dell'investimento è certo. Quindi mi sento di dire che nessuno si dovrebbe spaventare di andare a muovere questi capitali. Perché tu dici ci sono già i clienti che pagano e quindi... Assolutamente, io dico ci sono già i clienti che pagano. Tutti i giorni ognuno di noi paga questi 9 euro. Quindi nel momento in cui... Non è che dopo devi andare a trovare i clienti. Allora, naturalmente questo progetto metterebbe automaticamente in crisi l'altra rete che oggi c'è, che è quella di rame, che sappiamo tutti ormai è superata dalla storia, dalla tecnologia. Si cerca di portarla, di farla fruttare ancora e di renderla performante. Sicuramente in questi anni i progetti che Telecom Italia e anche altre aziende stanno facendo serviranno per cercare di estrarre valore da questa rete ancora per qualche anno, però noi stiamo parlando di prospettive un po' più in là nel tempo. Però questa idea di portare la fibra ottica ovunque chiaramente metterebbe in crisi questa infrastruttura. Allora, tutto ciò come si concilia, se si concilia, con la rete attuale, col famoso tema dello scorporo della rete, Telecom, eccetera, eccetera, che ha anche, non dimentichiamoci, una serie di posti di lavoro. Poi io sono dell'idea che uno deve guardare dicono gli americani, the whole picture, cioè a tutto il contesto e a tutto quello che accade, perché se io riesco a creare, come io sono convinto sia, mettendo a disposizione degli italiani fibra ottica in grande quantità, sono convinto che si possono creare molti posti di lavoro, non mi preoccupo se ne perdo un po' da una parte, perché ne creo moltissimi dall'altra. Però è un tema anche molto politico, visto che poi i politici capiscono nel breve periodo, non tutti, fortunatamente. Allora, andiamo in ordine, partendo dall'ultima, il problema dei posti di lavoro. Ma intanto è da dimostrare che creare una rete alternativa porterà via posti di lavoro. Secondo me ne va a creare, perché comunque nel momento in cui la devi costruire, dei posti di lavoro si creano e molti potrebbero migrare dall'azienda che citavi tu precedentemente. Secondo, le nostre aziende, per essere competitive, credo che siamo tutti convinti, hanno bisogno di servizi di telecomunicazioni e ne avranno sempre più bisogno in futuro. E per essere competitive e rimanere sul nostro territorio e creare posto di lavoro sul nostro territorio, c'è bisogno di queste risorse. Come si concilia? Ma sai, io non è che sono a favore o contro lo scorporo della rete di Telecom Italia. Basta che la direzione sia quella che ho detto all'inizio. Cioè, a me va bene scorporare qualcosa da Telecom, che poi alla fine sono le infrastrutture di posa o la fibra spenta che loro hanno. Su quello mi va bene, ma l'altro problema è la governance successiva. Cioè, io sono pronto ad andare a comprare infrastruttura da Telecom che confluisce nella società pubblica che ho detto prima, ma la società pubblica deve essere 100% pubblica per garantire poi una sorta di neutralità e di parità di condizioni. Lo stesso Telecom Italia poi diventerebbe uno dei clienti di questa società, che utilizza parte delle infrastrutture scorporate, quindi pagate, e le infrastrutture che andrà a costituire. Questa potrebbe sembrare ad alcuni, e in effetti potrebbe anche esserlo, un'idea molto da stato socialista. Cioè adesso ripeto, tutte le altre reti sono pubbliche, nessuno si scandalizza che le ferrovie sono pubbliche, il cielo è pubblico, l'acqua è pubblica, le strade sono pubbliche, eccetera, eccetera. Si tratta di creare un'azienda nuova pubblica che gestisca la rete di telecomunicazioni. Secondo me il modello più liberale invece che possa esistere, perché metto in mano ad un soggetto neutrale un'infrastruttura che non ha senso che sia replicata, l'importante è che ne esista una, e quindi i soggetti poi si vanno a fare a parità di condizioni tecniche ed economiche la competizione sul servizio. In più, vogliamo fare un riferimento storico liberale, quindi quando parliamo di mercato, il mercato è la massima espressione del concetto di liberale. Ma nell'antichità il mercato, la parola mercato, da cosa è costituita? Dai banchi, dei commercianti che ovviamente vendevano ed acquistavano merci nella piazza del paese, ma la piazza del paese era pubblica. Sì, la piazza... Ah beh, ancora oggi. Esatto, quindi la piazza veniva messa a disposizione e viene messa a disposizione dal pubblico. Sui mercati digitali, per quanto mi riguarda, la piazza è la rete pubblica passiva, una piazza è passiva, sì. È spenta. Su cui poi i mercanti fanno le loro transazioni e quindi gli operatori venderanno i loro servizi. Non vorrei complicare un po' le cose, però tutto ciò ha anche a che fare con il famoso tema dibattito sulla neutralità della rete, che è un tema molto complesso, che però, come dire, porta a questa complessità nell'uso di tutti i giorni che noi facciamo di internet. Cioè il bello dell'uso che noi facciamo di internet è perché internet è neutrale. Ha a che fare, sono il concetto di agevola rete neutra e rete neutrale sono due cose diverse, non voglio entrare in complicazioni, però nel momento in cui dovesse esistere un'infrastruttura in fibra al solito spenta che chiunque può utilizzare, operatore di telecomunicazioni o volendo anche i cosiddetti over the top, Google, che magari decidono di farsi la loro rete e di fare anche loro gli operatori, perché poi per poterla prendere devono fare gli operatori, non si porrebbe più per loro il problema della neutralità e quindi del fatto che la loro informazione debba passare ad un costo diverso da quello di altri. C'è qualcuno nel nostro paese che sta cominciando a pensare a questo, anche a livello politico, dal tuo punto d'osservazione, insomma da... Ma esperto del settore TLC e operatore del settore TLC. Diciamo che io ero molto contento sulla fine del 2012 di aver letto una frase all'interno del programma delle prime primarie di Matteo Renzi, che diceva che appunto il suo modello per la Next Generation Network sull'accesso era di una rete pubblica interamente posseduta al 100% dal soggetto pubblico da mettere a parità di condizioni tecniche ed economiche a disposizione di tutti gli operatori. Diciamo che è una frase a me molto familiare. Cioè, quando l'hai letta hai detto, ah, interessante. Esatto. Diciamo che l'avevo detto molte volte prima, quindi qualcuno evidentemente era d'accordo con me. E ultimamente vedo anche da parte del Movimento 5 Stelle un certo interesse, quindi spero davvero che andremo in quella direzione. Questa era la voce di Simone Buonannini, che è amministratore delegato di Interroute, un gruppo internazionale che si occupa di fibra ottica ed è esperto di telecomunicazioni, oltre che per avere studiato questa materia, anche per lavorarci da parecchi anni. Bene, mi sembra, come dicevo all'inizio della nostra trasmissione, questa che state ascoltando è la versione podcast di 2024. Dicevo, mi sembra attualmente la proposta più convincente, più interessante per pensare al futuro delle nostre reti, tra l'altro con investimenti che sono molto bassi se li confrontiamo con altre infrastrutture che di dubbio interesse nazionale, perché se pensiamo a certi progetti di autostrade o di reti ferroviarie, poi le mettiamo a confronto con il beneficio che porterebbe la fibra ottica in tutte le abitazioni, in tutti gli uffici, in tutte le aziende, beh, insomma, 10-0, cioè non c'è proprio storia. Quindi lì bisognerebbe fare un investimento, lì bisognerebbe puntare per vedere poi anche il prodotto interno lordo muoversi, e invece continuiamo a fornire un brodino caldo riscaldato con cose e provvedimenti che servono ben a poco. Va bene, noi torneremo a battere il chiodo, anche perché questo è un tema che noi crediamo sia decisivo per il futuro di un paese che vuole essere moderno. lo stanno facendo buona parte dei nostri stati compagni all'interno dell'Unione Europea o concorrenti a livello internazionale, non vedo perché non lo possiamo fare noi, che siamo sempre stati nelle telecomunicazioni un grande paese. Questo è 2024, scriveteci a 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana, come sempre grazie per averci ascoltato. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.